A bordo campo di Dario Ricci. Contro gli ungheresi gli azzurri si schierano con Olivieri, Foni, Rava, Serantoni, Andreolo, Locatelli, Chiavati, Meazza, Piola, Ferrari, Colaussi. Olivieri, Foni, Rava, Serantoni, Andreolo, Locatelli, Biavati, Meazza, Piola, Ferrari, Colaussi. Piero Terracina nel 1938 fece in tempo a sentire, snocciolata dalla voce di Niccolò Carosio, questa formazione degli azzurri che poi sarebbero diventati campioni del mondo in Francia. Fece in tempo fin quando poi, a causa della promulgazione delle leggi razziali, quella radio che aveva raccontato le gesta degli azzurri non gli venne sequestrata, e per Piero e per la sua famiglia, ebrei romani, iniziò un'odissea che avrebbe avuto fine solamente ad Auschwitz, nel buco nero del mondo. E Piero è stato uno dei pochi sopravvissuti della sua famiglia a tornare in Italia e a raccontare da quel giorno questa epopea. È questa storia che oggi vi raccontiamo nel giorno della memoria qui a Radio 24 e a bordo campo, e scegliamo la voce più autorevole, più rappresentativa del nostro calcio, perché la nazionale è il nostro calcio, ma è anche un pezzo della nostra storia. E allora benvenuto oggi a bordo campo qui a Radio 24 al commissario tecnico della nazionale azzurra Cesare Prandelli. Buongiorno e grazie per l'invito. Buongiorno a tutti. Buongiorno CT, grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Con lei vogliamo rivivere quella giornata importante, preziosa. Lo dico subito che vale qualsiasi Coppa del Mondo, almeno per noi. Abbiamo sentito anche noi quel giorno. Infatti. È sempre emozionante parlarne, perché abbiamo provato delle sensazioni particolarmente strane per una squadra di calcio, perché avevamo preparato il calciatore, avevamo preparato ovviamente a un incontro con i sopravvissuti, a un incontro con molti che portavano le proprie testimonianze, però man mano che ci si avvicinava d'incanto c'è stato un silenzio che ci ha accompagnato per tutto il giorno, anche mentre si ascoltava la testimonianza e mentre si riviveva così nella nostra mente la follia umana dove può arrivare. Io sono orgoglioso di aver contribuito a scegliere proprio che la nazionale italiana partecipasse in questo modo alla giornata di Auschwitz. Quindi io paradossalmente obbligherei tutte le scuole a portare i bambini per capire dove veramente, come dicevo prima, la follia umana può arrivare. Ecco, signor Prandelli, si era alla vigilia di un europeo sentitissimo, si puntava a un grande risultato che poi di fatto è arrivato, e la stampa italiana, io seguivo quelle vicende da qui, dalla redazione, e percepivo una sensazione strana, no? C'era la paura di saltare un allenamento, che alcuni i tempi dell'allenamento potessero essere violati da questa visita. Lei subito... Abbiamo avuto nessun tipo di... Infatti, timore. Lei con grande decisione, senza se, senza ma, disse in modo molto chiaro: si va ad Auschwitz a fare questa visita perché... Ma assolutamente, non c'erano allenamenti, non c'era nulla. Anzi, secondo me è stato un allenamento straordinario, perché come dicevo prima, quel silenzio che ci ha accompagnato, perché avevamo la sensazione di provare delle emozioni forti, quindi dovevamo prepararci, e mentre ci si avvicinava, ma tutti, anche quelli più esuberanti, quelli che magari ovviamente tengono sempre alto lo spirito facendo battute eccetera, hanno d'incanto anche loro smesso di parlare, e avevamo proprio il desiderio di arrivare preparati, e quindi è stata una giornata veramente indimenticabile, e è stato l'allenamento più importante della nazionale, insomma. Tra l'altro le chiedo, a distanza di alcuni mesi e con tanti episodi che ben conosciamo in mezzo, qual è l'eredità di quella visita, di quella giornata, e avete avuto modo di riparlarne nei mesi successivi con i ragazzi? Assolutamente sì, quando rivivi quella giornata ognuno di noi porta le proprie emozioni, i propri sentimenti, il proprio modo di aver vissuto quella giornata. C'è chi ricorda gli oggetti, c'è chi ricorda il silenzio, c'è chi ricorda il pavimento, chi ci ricorda i gradini, ma soprattutto la cosa che ci ha toccato molto è che abbiamo ascoltato i sopravvissuti proprio dal punto esatto dove arrivarono con il treno. E lì tutte le volte che ricordiamo le parole, ricordiamo anche soprattutto il silenzio che ci ha accompagnato. E secondo me il silenzio fa bene perché fa riflettere, fa pensare. Se pensi, rifletti, pensi ad altre persone, quindi può essere generoso. Secondo me la nazionale italiana deve per forza di cose essere generosa. Beh, direi che sotto la sua gestione lo è in modo particolare. La nazionale è tornata ad essere parte del vissuto del paese. Faccio riferimento alla partita che avete giocato a Rizziconi su un campo confiscato all'Andrangheta, oppure il fatto di aver sposato la causa della lotta contro la violenza contro le donne nella recente amichevole con la Francia. Ecco, credo che questo sia... Ma penso che sia abbastanza normale, cioè, non facciamo niente di eccezionale. Io penso che la squadra nazionale deve avere la sensibilità giusta per certe tematiche. Per quanto riguarda il fatto di essere andati a Rizziconi, quando rubi un sogno a un bambino rubi tutto, quindi non dobbiamo accettare nulla di questo, quindi siamo andati consapevoli di fare qualcosa proprio per i bambini. Tante altre iniziative, ma le facciamo proprio perché siamo convinti che il nostro modo di essere, il nostro modo di proporci deve essere anche questo. La nazionale deve portare gioia, deve portare allegria, deve portare entusiasmo, ma deve portare anche un senso di responsabilità, un senso d'appartenenza. Auschwitz è il simbolo più nero, no? Dei sogni e delle vite spezzate. Ecco, qual è la sua immagine personale che conserva di quella giornata in cui tra l'altro lei proprio guidò i ragazzi come fosse non solo l'allenatore ma quasi il papà o il professore, no? A guidare la sua scolaresca. Ognuno di noi portava le proprie emozioni, come dicevo prima, le proprie esperienze, il proprio vissuto, quindi anche le testimonianze che avevo sentito, ma a parte il silenzio, a parte tutto, la cosa che mi ha colpito veramente è che sentivo proprio fisicamente, ecco, forse sì, ho sentito fisicamente quando salivo i gradini, tutti questi gradini consumati, proprio consumati, ecco, lì è stata una cosa veramente forte. Molto forte. In questi giorni il calcio italiano ha ricordato anche finalmente in forma ufficiale anche Arpad Weiss, no? L'allenatore di Bologna e Inter, che pagò con la vita proprio la sua origine ebraica. Da questo punto di vista cosa si può fare ancora? Sono mesi in cui combattiamo contro il mostro del razzismo con risultati alterni. Ecco, per quella che è la sua esperienza... Ma dobbiamo... Di solito diciamo che dobbiamo abbassare i toni per cercare di gestire il mondo del calcio. In questo momento invece forse dobbiamo alzare i toni contro questi soprusi, contro queste manifestazioni di violenza, perché sono veramente atti di violenza. E quindi dobbiamo indignarci, dobbiamo offenderci, dobbiamo dire basta, semplicemente dire basta, non accettiamo più questo mondo incivile, dobbiamo fare qualcosa per migliorarlo. Non so cosa si possa fare, se alzarci e voltare le spalle oppure abbandonare l'evento diventa una cosa un po' troppo forte, anche se ho condiviso, ho detto che sono stati fantastici i giocatori del Milan, Allegri a rifiutare questa violenza, però dobbiamo fare qualcosa di più. Già il fatto che ne parliamo, già il fatto che ne discutiamo e far finta di niente, no, basta. Io semplicemente direi basta. Le chiedo ancora quanto pesò quella giornata nella costruzione di quella squadra, nel vissuto di quella squadra, perché io credo che poi per un allenatore, una volta che un gruppo vive quell'esperienza, sia anche più facile far passare altri messaggi. Ma assolutamente sì, anche se, come dicevo prima, non devi fare tanti discorsi, in certi momenti, in certi posti, è la testimonianza, è la storia che ti scuote, ti scuote veramente, noi siamo stati scossi, e quindi poi torni in albergo, ricominci a avere il tuo tram tram, le tue ore, la tua programmazione, il tuo allenamento, e ogni tanto quando rivivi anche attraverso delle immagini, delle fotografie, quel momento, allora c'è un momento di riflessione, allora lì capisci che la squadra è rimasta colpita, perché ritorna quel silenzio, magari per pochi istanti, ma ritorna, quindi vuol dire che abbiamo lasciato un segno. Ecco, le chiedo per chiudere la nostra conversazione, ringraziandola ancora per l'eccezionale disponibilità che ha dato radiofonicamente e soprattutto su questo tema. Ecco, qual è il messaggio che nel suo ruolo di commissario tecnico e di ambasciatore del calcio italiano nel mondo si sente di dare in questa giornata per il futuro, per impostare i prossimi passi di questa lotta? Cosa si può fare? Quali possono essere i prossimi passi da seguire in questo percorso sicuramente ancora difficile? Ma non so, in questo momento proposte non ne ho, se non quello di pensare alle nuove generazioni, di pensare ai ragazzi giovani, perché io penso che ormai gli adulti siano inquinati da tante cose, e quindi, come dicevo prima, forse essere più presenti nelle scuole, ricordare non solo attraverso immagini, filmati, ma anche avere la forza e la volontà di andare in quei posti. È un'esperienza che secondo me va vissuta, proprio per cercare di capire cosa può succedere quando la follia umana non ha limiti, e quindi per il rispetto anche di tutte quelle famiglie, di tutti quei bambini che hanno sofferto, i genitori, io penso che i ragazzi possono avere quella sensibilità che forse noi adulti abbiamo perso. È stata una giornata quella forse che vale qualsiasi coppa del mondo, eh? Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, Cesare Prandelli, grazie per essere stato oggi il nostro ospite qui a Bordo Campo, e oltre ai ringraziamenti però anche l'in bocca al lupo per portarla a casa. Crepi poi quella lupo. Coppa. Grazie, grazie. A Bordo Campo. Puntata speciale quella di oggi di A Bordo Campo. Riflettiamo insieme sulla giornata della memoria e riflettiamo insieme anche sul tema della diffusione del razzismo nel nostro calcio, sperando di riuscire a trovare delle soluzioni o quantomeno di mantenere ben desta l'attenzione di tutti su questo problema. E allora sicuramente ci fa piacere ospitare oggi un amico di A Bordo Campo e di Radio 24, Fausto Viviani del movimento Viva il Calcio. Ben trovato, Fausto. Buon pomeriggio. Allora, perché ospitiamo oggi Fausto Viviani? Perché col movimento Viva il Calcio, che è poi il frutto, come ci spiegherà adesso Fausto, dell'attività di due associazioni bolognesi, siete stati di fatto i promotori di quella che recentemente è stata la partita di Arpad Weiss, quell'Inter Bologna di Coppa Italia che, oltre a regalare emozioni sul campo, si è risolta solo ai supplementari con un colpo di testa di Ranocchia a favore dell'Inter, ha regalato parecchie emozioni anche a Bordo Campo, perché Bologna e Inter hanno dedicato quella sfida alla memoria di Arpad Weiss, l'allenatore ungherese di origine ebraica che proprio con rossoblù e nerazzurri vinse 3 scudetti, fu lo scopritore di Pepin Meazza, e poi a causa delle leggi razziali promosse nel 1938 fu costretto a lasciare l'Italia, e dopo un penoso e dolente pellegrinaggio in tutta Europa con la sua famiglia trovò la morte nel gennaio del 42 ad Auschwitz. Fausto, direi che era ora che Inter e Bologna scendessero insieme in campo per onorare questo grande personaggio, questo grande innamorato del calcio. È proprio così, l'hai descritto benissimo. Era ora, in effetti la proposta era in campo, diciamo così, come ipotesi da molto tempo. Diciamo che noi abbiamo avuto la capacità di capire che il periodo era buono, era perché eravamo vicini alla giornata della memoria, e a questo punto abbiamo messo un appello su Facebook chiedendo alle due società di dedicare appunto la partita. Devo dire che ha molto contribuito all'adesione all'appello dei due sindaci di Milano e di Bologna, che hanno sicuramente contribuito ad accrescere la sensibilità su questa proposta. Poi devo dire che anche i due presidenti l'hanno accolta molto bene, e quindi il 15 sera c'è stata questa partita. Comunque è stata una bellissima partita, molto corretta anche in campo, e penso che sia stata una dedica anche dal punto di vista calcistico bella nei confronti di questo grandissimo allenatore, che mi viene proprio da dire, per amore del calcio, anche per amore del calcio, è finito ad Auschwitz. Eh sì, e tra l'altro a San Siro proprio c'è anche una targa che già era stata posta a memoria di Weiss, e soprattutto c'è un monumento che in realtà è un libro straordinario, splendido, gli aggettivi veramente sgranano rispetto alla bellezza di quelle pagine, e lo consiglio come lettura caldamente a tutti i nostri ascoltatori. Il libro di Matteo Marani, il direttore del Guerin Sportivo e altro amico di A Bordo Campo, Dallo scudetto ad Auschwitz, vita e morte di Arpad Weiss, allenatore ebreo, pubblicato da Aliberti nel 2007. Beh, quelle pagine sono veramente un monumento alla memoria di questo grande personaggio del nostro calcio, e soprattutto sono le pagine che hanno riportato d'attualità questo personaggio con la sua storia, no? È da quel libro che poi certo. È nato questo percorso di recupero della memoria. Certo, è nato da quel libro, e quindi sono totalmente d'accordo con te sia nel riconoscere a Matteo questa grande capacità, e anche nel consigliare la lettura del libro, che non è un libro didascalico, perché in realtà è un libro che racconta i passaggi attraverso i quali lui ha ricostruito questa memoria, anche gli aspetti, anche la dimensione emotiva di questi passaggi, perché non sono stati semplici. Lui per ricostruire questa memoria ha dovuto trasformarsi in un archeologo, ha dovuto andare a cercare i maggiori sì, spedali, un vero storico, insomma. Esattamente, un vero storico. E anche avendo poi, da un certo punto di vista, dei segni che fanno quasi pensare che sia stato Arpad che si è fatto sentire. È vero, è vero. Una voce recuperata e sottratta all'oblio. Ecco, Fausto, vi immagino già impegnati a pensare il futuro, perché quella giornata è stata importante, quel ricordo è in qualche modo rimarginato, una ferita del nostro calcio, ma bisogna guardare al futuro. E quali sono le altre iniziative che avete in cantiere per continuare questo percorso di memoria? Allora, guarda, quella partita è stata molto bella, ha avuto solo una nota che non positiva, che però ci ha aperto uno scenario che non conoscevamo, perché poi Viva il Calcio, che nasce appunto promosso da queste due associazioni che si occupano del sociale, che sono la cooperativa H Parlante e Bandiera Gialla, è fatto da persone che non sono persone come me, che si occupano quotidianamente di calcio. Io mi occupo di altro, faccio il sindacalista della CGIL, quindi nella mia vita mi occupo di altro. Dicevo, nella partita è successo che il Bologna è stato multato per delle grida con caratteristiche razziste, e ovviamente la sera di Arpad Weiss è molto dispiaciuto. Non erano cori, perché nessuno li ha sentiti, ma c'erano dei rappresentanti del giudice federale che erano vicino ai tifosi del Bologna, e qualcuno ha inveito in maniera razzista nei confronti di un calciatore dell'Inter. Allora a questo punto ci siamo chiesti, ma è solo è successo col Bologna, ma quanti altri casi ci sono nel nostro campionato dove appunto si parla di episodi dove avvengono espressioni di discriminazione razziale o etnica o territoriale? E siamo andati a vedere. Avete fatto proprio uno studio, e tra l'altro abbiamo fatto una ricerca. Lo sintetizzo rapidamente, Fausto, proprio con i dati che hai sottoposto anche all'attenzione degli amici di A Bordo Campo. Dall'inizio del campionato già 12 le ammende comminate a società di Serie A per cori ingiuriosi, che è la formula insomma burocratica per indicare spesso cori offensivi e razzisti, hanno interessato per 3 volte Juventus, Atalanta, poi Roma, Lazio, Inter e Udinese, in Coppa Italia il Verona, lo stesso Bologna, per un totale di 133.000 euro di multa, considerando che il totale dell'anno precedente era stato di 277.000 euro. Siamo già a una quota preoccupante, sopra, no? Sopra i 400. Quindi abbiamo detto, da una parte vuol dire che allora non sono i soliti, come viene detto spesso, no? I quattro gratti, i quattro imbecilli,